Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia dopo la pausa pasquale. Vedo già molti messaggi. Sì, ci occuperemo della, come cronaca, della giornata economico-finanziaria, anche dell'annuncio a sorpresa, devo dire, senza nessuna polemica, di Theresa May che andrà ad elezioni. Dice: con questo Parlamento la Brexit diventa ingestibile. E lo dico nel massimo rispetto, sappiamo che la maggior parte dei parlamentari prima del voto britannico erano a favore del Remain. Devo dire che la Gran Bretagna, da quando ha votato il referendum, poi so benissimo che alcuni di voi dicono ha fatto bene, non era nell'euro, ma è uscita dall'Europa, vuole uscire dall'Europa, a questo punto ha avviato tutto il processo. Faccio notare che la Gran Bretagna a livello di governo e di Parlamento non si sta occupando d'altro praticamente che della Brexit. Io spero che questo poi non crei problemi nella gestione, chiamiamola così, ordinaria, e anche così nella prospettiva politica del paese, perché ormai la Brexit, non dico che sia un'ossessione, ma sicuramente è un elemento che sta drenando tutte le energie britanniche. Lo dico perché la May lo ha annunciato a sorpresa e subito verrà stata anche una reazione dei mercati. Il voto anticipato per quello che riguarda la Gran Bretagna l'8 giugno. Non è un caso che oggi Londra vada malissimo rispetto anche al resto d'Europa, meno 2,40%. La sterlina aveva conosciuto subito uno scossone dopo l'annuncio della conferenza stampa. Comunque, reazione anticipata a sorpresa l'8 giugno, premier scommette su un vantaggio Tory, quindi dei conservatori. Gli altri partiti si oppongono alla Brexit, ha detto Theresa May, che ha detto la Brexit è nell'interesse nazionale, ma gli altri partiti si oppongono. Le divisioni del Parlamento britannico, di Westminster, ci indeboliscono sulla Brexit, per questo abbiamo bisogno di elezioni e ne abbiamo bisogno ora. E questo per quello che riguarda la Gran Bretagna, che va a sorpresa dopo le dimissioni l'anno scorso del Premier Cameron, colui il quale aveva voluto comunque fare il referendum convinto di uscire rafforzato, ne è uscito bastonato ed è scomparso dalla scena politica britannica. Faccio notare che l'anno scorso a febbraio, quindi prima del referendum, Cameron era riuscito a ottenere parecchi vantaggi nella trattativa con l'Unione Europea, però ha voluto, convinto di vincerlo, è andato al referendum. E questo è quello che è successo. Faccio anche notare che in Gran Bretagna il segretario britannico per la Brexit, David Davis, ha detto, insomma, attenzione, gli organismi che dovrebbero lasciare la Gran Bretagna, mi riferisco all'autorità bancaria europea, l'EBA, e l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, vorremmo che restassero in Gran Bretagna. E se dovessero lasciare la Gran Bretagna lo vorremmo il più tardi possibile, per carità. Ogni richiesta è legittima. Facciamo notare al segretario britannico per la Brexit David Davis che non decidono loro quando le autorità si devono spostare, sono due autorità importanti. Milano punta, come sta raccontando il nostro viaggio in questa settimana, presente nel GR dalle 7 alle 8, in effetto giorno, in effetto notte, viaggio sul Milano Post Expo, le sfide che attendono, in primo luogo riuscire a attrarre e intercettare il maggior numero possibile di attività che lasceranno la Gran Bretagna a partire dall'EMA. Perché l'EBA, che è l'autorità bancaria europea, si è candidato a Lussemburgo, si è candidata alla Germania, Francoforte, Parigi. Sull'EMA abbiamo più possibilità. Faccio anche notare che il numero uno è italiano, Guido Rasi, l'attuale direttore, ma abbiamo anche più possibilità per la presenza nella zona di Milano di vari colossi farmaceutici. Perché ci tengono così tanto gli inglesi? Beh, l'EMA vale da solo, l'agenzia del farmaco, vale 900 addetti, con relative famiglie a seguito, quindi è un'impresa di medie dimensioni che si sposta lì, più 36.000 persone che vi si recano ogni anno, e che vuol dire 400 posti letto al giorno in Gran Bretagna, a Londra, perché tutte cose che vengono, oltre che poi rappresentare anche un elemento di diciamo, simbolico di potere. Però insomma Londra non vorrebbe traslochi in tempi brevi, ma non decide lei, non è più lei il proprietario, diciamo, dell'appartamento, per usare questo, questo esempio. Sulla reazione dei mercati e anche su quella decisione a sorpresa di Theresa May, sentiamo i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. Ricordo che sono trasmessi su RDS. Accolgo la polemica di un ascoltatore che, usando le mie parole, dice: faccio notare, Barisoni, che noi da dicembre non facciamo altro che occuparci del PD. Ah beh, guardi, infatti non stavo dicendo che l'Italia sia un paese virtuoso su questo, dico solo che la Gran Bretagna, che possiamo dire per ora che il processo della Brexit sia tutto tranne che lineare e tutto tranne che con opinioni convergenti e con un clima unanime in Gran Bretagna. 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il primo ministro inglese, Theresa May, ha chiamato a sorpresa le elezioni anticipate, un fatto a cui noi siamo abituati in Italia, dove quando c'è incertezza su quali sono gli equilibri politici fra i due principali partiti, tra maggioranza e opposizione, si chiamano le elezioni perché decida poi l'elettorato. Ma quello delle elezioni anticipate è un po' tipico nostro come fenomeno, più di quello inglese, che appunto non a caso si tratta un po' una delle prime volte nella storia che gli inglesi vengono a chiamare al voto anticipatamente rispetto alle date previste. Il motivo è chiaro: Brexit. La Theresa May vuole essere sicura di avere il massimo del sostegno del proprio elettorato e soprattutto degli inglesi, e soprattutto ancora di più degli inglesi della City, nel momento in cui dovrà avviare la trattativa finale con l'Unione Europea per il distacco definitivo dall'Europa. Che cosa succederà dunque questo voto anticipato dell'8 giugno? Per ora la May ha un vantaggio di circa 20 punti e probabilmente, forte di questi 20 punti, intende proprio calcare la mano e quindi presentarsi al tavolo negoziale con il pieno supporto del Paese. Certo è che in questo momento i mercati finanziari sono stati un po' presi di contropiede dalla decisione, non a caso la sterlina ha avuto un forte rimbalzo, erano giorni che la sterlina scendeva, proprio perché si elimina l'incertezza sul mandato della May, ma dall'altra parte la borsa è caduta. Questo non deve assolutamente preoccupare, anche perché è evidente che in un momento di rafforzamento della sterlina diventa più costoso riportare all'estero i profitti maturati al London Stock Exchange. Quindi per il momento niente di grave, niente di scioccante, ma sicuramente un voto a sorpresa e la capacità, ancora una volta, degli inglesi di sorprendere il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Le altre notizie che tratteremo oltre alla decisione britannica, cercheremo di iniziare anche, se ce la facciamo, perché stiamo cercando da questa mattina Luigi Zingales, che domenica, quindi l'altro ieri su Sole 24 Ore, ha lanciato la proposta di un serio dibattito sull'euro. Zingales, che è editorialista del Sole 24 Ore e insegna all'Università di Chicago, dice: insomma, ha posto tre questioni: se nel lungo periodo per l'Italia sia preferibile avere una moneta in comune, quanto elevati e duraturi possono essere i vantaggi e gli svantaggi e quali sarebbero i costi economici, chiedendo un contributo di altri economisti sulle pagine del Sole 24 Ore. Ben venga la discussione, anche perché voi sapete come la penso sull'euro, e penso che il problema dell'Europa non sia il termometro, l'euro, ma la gestione della malattia, e quindi la gestione tedesca, olandese, diciamo, di questi anni. Però è giusto anche sentire proposte che vadano al di là della politica, perché quando io sento alcuni partiti proporre l'uscita dall'euro senza chiarire bene che cosa capiterebbe, mi sembrano apprendisti stregoni. Vedremo di capire anche da Zingales quale sia l'obiettivo, appena riusciamo ad averlo. Vedo molti messaggi sulla Brexit. No, non sono preoccupato della Brexit, sono fatti loro, nel senso, dico semplicemente che sta drenando molte risorse, molte energie. Qualcun altro mi scrive: Renzi ha perso il referendum, da perfetto italiano è rimasto, Cameron ha perso il referendum, da britannico ha lasciato. Di sicuro lei non lo dirà, caro Claudio da Torino, l'ho appena letto il suo messaggio, però c'è un'inesattezza. Adesso lei può stare simpatico o antipatico Renzi, ma Renzi si è dimesso quando ha perso il referendum. Che adesso corre per le primarie non glielo so mica impedire, cioè corre Emiliano, corre Orlando, corre anche Renzi. Per cui non andiamo sempre sulla polemica. Ancora vedo che altri mi chiedono del Fondo Monetario. Sì, certo, parleremo anche dei dati del Fondo Monetario di oggi e della manovra, perché insomma... in un'intervista al quotidiano Messaggero, il ministro dell'economia Padoan ha detto: è ragionevole uno scambio fra le aliquote e il cuneo fiscale, ma resta l'ipotesi del taglio IRPEF. Gli aumenti agli statali ci saranno, c'è continuità con Renzi. Cioè, Padoan ha aperto all'ipotesi che possa aumentare l'IVA in cambio di una riduzione del cuneo, cioè di quello che è la trattenuta in busta paga rispetto a quello che costi a un datore di lavoro. A mio avviso questo non è esattamente in linea con quello che abbiamo letto nelle dichiarazioni di Renzi, soprattutto con l'assenza di nuove tasse, ma ci sembra un elemento importante, perché da qualche parte questa questione la devi prendere. Faccio notare che il Fondo Monetario Internazionale oggi stima un'Italia che cresce leggermente più rispetto alle sue stime. Stiamo parlando di uno 0,1% in più, cioè 0,8% quest'anno e 0,8% nel 2018. Ammette anche che la crescita è decisamente sotto il potenziale. Il deficit al 2,4% quest'anno e all'1,4% nel 2018, e lì avete ascoltato, chi l'ha sentita, l'intervento del professor Piga da noi la settimana scorsa, che diceva: rinunciamo a questo deficit all'1,4%, l'unica soluzione per avere una vera manovra fiscale intesa come riduzione delle tasse in busta paga la puoi fare se tu dici all'Europa: va bene, manteniamo il deficit al 2,4% anche quest'anno, con quel punto percentuale di deficit in meno vale più o meno 20 miliardi e fai un'operazione. Cioè, non andiamo dietro alle promesse dell'Europa, tanto un deficit al 2,4% è sotto il 3%, è meglio di altri paesi. Allora, alcuni mi fanno notare che Renzi avrebbe detto che avrebbe lasciato la politica, ma l'esempio era su Cameron si è dimesso anche Renzi. Le altre notizie, partendo dalla borsa, dicevo, al di là della Gran Bretagna, al di là della borsa di Londra, meno 2,30%, Parigi perde lo 0,60%, Milano l'1,30%, Francoforte lo 0,60%, Parigi l'1,40% di calo, Milano l'1,30%. Va bene solo Leonardo Finmeccanica, c'è notizia, più 3,26%, Moncler più 0,60%, invece cala in maniera significativa Mediaset, meno 3,70%, Atlantia meno 3%, Telecom Italia meno 2,90%, come Tenaris, il 2,5% lo perde Saipem, ma anche STMicro Electronics e Boots Unicem, il 2,20%, il calo di CNH, Unipol e Azimut e anche il banco BPM. Per quello che riguarda lo sciopero all'Italia, il referendum sulla proposta di accordo con l'Italia, non ci sono notizie, se non un fatto, come già raccontavano i nostri GR24, che i piloti riuniti nella sigla NP invitano tutti i loro piloti associati a votare no al referendum. È inaudito che dopo tutti i sacrifici fatti sia nel 2008 che nel 2015, con tagli sul costo del lavoro oltre il 40%, oggi ci sia un accordo firmato e posto a referendum che prevede tagli non dell'8% sulle retribuzioni, ma del 30% annuo. E poi le autostrade. Allora, forte adesione oggi allo sciopero dei lavoratori, in lunghe code ai caselli. Il Ministero dei Trasporti ha convocato le aziende, ma la protesta prosegue. No, in realtà su autostrade c'è una notizia che arriva adesso. E Abertis, che è il colosso spagnolo autostradale, afferma in una nota che Atlantia, quindi famiglia Benetton, che controlla la vecchia Autostrade per l'Italia, le ha manifestato il proprio interesse ad esplorare una possibile operazione societaria i cui termini non sono ancora stati specificati, e questo andrebbe nella direzione di un disimpegno, di uno smarcamento, di un'uscita dei Benetton dalla gestione dell'ex Autostrada per l'Italia, che si chiama Atlantia. L'ipotesi, come voce, non come, era circolata molto nei giorni scorsi. E tra l'altro il comunicato lo ha diffuso oggi la stessa Abertis su richiesta della Consob spagnola, che ha chiesto chiarimenti essendo quotata. Allora, caro Lucio, che mi scrive una marea di insulti, o fai il furbo, non hai studiato bene l'economia. Senza euro, ma con la nostra sovranità monetaria, possiamo svalutare e metterlo in quel posto ai tedeschi. Sì, le faccio notare che non svalutiamo solo il beneficio della svalutazione, non è solo per le esportazioni, che non mi sembrano il grande problema di questo paese, ma sono i consumi interni. Il problema che aumenta anche con la nuova liretta il nostro debito, i mutui, tassi di interesse, i debiti espressi in euro, come li trasformiamo? A presente cosa vuol dire una svalutazione? Vuol dire che te costa tutto di più, tutti i beni importati costano di più, imbarchi inflazione, aumenti i tassi di interesse, aumentano i mutui a tasso variabile e soprattutto metà del nostro debito in mano straniera è in euro, e quello lì vuol dire raddoppiarlo se svaluti la valuta. Non è che ci possiamo girare tanto attorno. Ripeto, per ottenere che cosa? Per esportare un po' di più, quando l'unica voce buona di questi anni è stata proprio quella delle esportazioni e non i consumi interni. Io, senza arrivare all'uscita dall'euro, farei una bella politica di investimenti pubblici e anche poi che porta dietro anche i privati, e non mi impiccherei su questo deficit che l'anno prossimo deve scendere all'1,4%, lo terrei a un livello sotto il 3%, ma chi se ne frega, prima i consumi, la ripresa dell'economia, poi il deficit. Veniamo invece alla parte che riguarda il resto dei titoli, visto che citavo Atlantia meno 3,21, Tenaris meno 3, Telecom meno 2,80, Estima Electronics meno 2,60, come Saipem il 2,5 lo perde Case New Holland, e il 2,20 il caro di Buzzi Unicem, ma anche di Azimut e Unipol. Euro su dollaro a 1,07. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo proprio dal Fondo Monetario Internazionale come primo tema. Oggi ha diffuso l'outlook, quindi sia sull'Italia ma anche su tutti i paesi occidentali, e vede dei rischi, vede un mondo crescere come economia ma dei rischi aumentare anche per via della guerra commerciale. Alessandro Merli in collegamento con noi. Pronto Alessandro, mi senti? Sì, vi sento, sì, buongiorno. Allora, per commentare i dati del Fondo Monetario Internazionale, ha rivisto leggermente al rialzo il PIL mondiale al più 3,5%, quindi un 0,1 in più, però ha visto al rialzo anche i rischi. Partiamo da qua, poi andiamo a chiudere su Europa e Italia. Rischi più che geomilitari, quindi Nord Corea, Siria, così, proprio geoeconomici, protezionismo, se ho ben capito, Alessandro. Ma sì, il protezionismo è nel mirino del fondo e anche delle altre organizzazioni internazionali già da qualche settimana. È stato anche l'oggetto un po' di un battibecco fra il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, che appunto aveva sollevato questo allarme, e l'amministrazione Trump, il segretario al commercio Wilbur Ross, che è la persona forse più ascoltata da Donald Trump sulle questioni commerciali, ha detto che quelle che dice la signora Lagarde sono sciocchezze. È possibile che questa discussione si rinnovi in questi giorni alle riunioni qui di Washington, dove si incontra il G20 e si incontra appunto il consiglio del Fondo Monetario formato dai ministri. Il protezionismo indubbiamente è un rischio, l'altro rischio viene anche questo dalla politica, ed è questa sequela di elezioni in Europa, la Francia domenica, poi la Germania, adesso anche la Gran Bretagna, la Gran Bretagna che è saltata dentro, Brexit, l'effetto Brexit finora sull'economia è stato abbastanza limitato, ma comunque non c'è dubbio che nuove elezioni aumentano ulteriormente l'incertezza, possibili elezioni prima o poi. Ma in effetti, scusa se ti interrompo Alessandro, cioè adesso con la Gran Bretagna abbiamo un poker praticamente, perché abbiamo la Francia che parte subito a maggio, poi a questo punto la Gran Bretagna, poi la Germania e con grande probabilità l'Italia o a novembre o a inizio del 2018. Insomma, qui è un poker. Ho capito che la Gran Bretagna ha iniziato le procedure per uscire dall'Europa, ma formalmente è ancora dentro l'Europa, per cui sono le principali quattro economie di tutto il continente. No, non c'è dubbio che l'incertezza è molto alta, anche se, come dicevo, fino adesso gli effetti della Brexit non si sono visti, ma è possibile che si materializzino man mano che vanno avanti i negoziati. E poi aleggia un po' sui mercati questa idea che la rottura dell'euro non è più una cosa così impensabile come sembrava negli ultimi tempi. Le tensioni, ha detto oggi il capo economista del Fondo Monetario Obsfeld, le tensioni sugli spread, sul debito francese, riflettono in parte queste preoccupazioni dei mercati, anche se evidentemente non tengono conto di quello che ha definito un rischio cataclismico, che sarebbe la rottura dell'euro, che a suo avviso però è un pericolo che non va esagerato, nel senso che dice i politici in campagna elettorale presentano dei programmi anti-euro, ma poi prima di arrivarci devono essere fatti diversi passi, e quindi questo rende meno probabile questa ipotesi. Sì, devo dire che noi adesso ci stiamo occupando molto dell'Europa, perché appunto la Francia inizia con fine aprile, poi il secondo turno il 7 maggio, se non ricordo male, però insomma è veramente un poker non invidiabile di appuntamenti elettorali. Però devo anche dire che il Fondo Monetario è un po' più ottimista invece sul resto del mondo, perché dice che i famosi BRICS che saranno fermati, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, soprattutto grazie a Cina e India e anche un po' di Russia, continueranno ad andare avanti. E quindi, cioè, sul resto del mondo, fuori dall'euro, la situazione mi sembra un pochino migliore nell'ottica del Fondo Monetario. Certo, infatti il Fondo Monetario vede, insomma, un'economia in ripresa. La crescita dell'anno scorso era 3.1 o 3.1, quella di quest'anno 3.5, l'anno prossimo 3.6, quindi il mondo un po' si sta riprendendo. Tra l'altro i dati del primo trimestre di quest'anno, che non sono tutti ancora compresi nelle previsioni appena pubblicate dal fondo, sono dati in genere, sono state sorprese positive più che negative, sia dalla Cina che dallo stesso Brasile, che è stato uno dei paesi più in crisi negli ultimi 2 anni, e poi anche nei paesi industriali stanno andando un po' meglio, il commercio internazionale, sempre con quell'incognito del protezionismo di cui dicevamo, sta mostrando una certa ripresa. Il fondo ricorda anche oggi che, insomma, con tutte le critiche che sono state fatte, però il commercio, la libertà dei commerci è stata uno dei grandi motori della crescita della crescita mondiale negli ultimi decenni. Veniamo adesso all'Italia, perché dell'Europa abbiamo detto, del resto del mondo, soprattutto dei BRICS pure. Ti chiedo un minuto di pazienza, anzi 2 minuti di pazienza, al meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sarà contento l'ascoltatore che mi ha appena scritto sui contenuti della trasmissione, nulla da dire, li ascolto sempre con interesse, però Barisoni sei un tamarro, sembra di essere al Privilege con Coccoluto. Ma che fine ha fatto Coccoluto da chiamarci per fare le basi musicali di Focus, tra parentesi? Va bene, ci ha dato la macchia. Allora, Alessandro Merli, la parte invece che riguarda l'Italia, mi scrive un ascoltatore, però attenzione, ma se noi continuiamo ad avere un deficit, continueremo a aumentare il debito. No, non è così, nel senso che si ritiene che la soglia del 3% sia quella gestibile del deficit, ecco perché l'Europa mette la barriera del 3%. Ma quello che conta è l'avanzo primario, adesso non voglio fare una piccola lezione imprecisa di economia, cioè quanto ti resta in cassa prima di pagare gli interessi sul debito. E noi abbiamo un avanzo primario che la Francia, per esempio, manco si sogna, perché abbiamo un avanzo primario dell'1,5% l'anno scorso, sono circa 20 miliardi, un po' più di 20 miliardi di euro. Quindi quello che tu spendi è meno di quello che tu incassi prima di pagare gli interessi, come se uno facesse un calcolo prima di pagare in mutuo, mettiamola così. Alessandro, non voglio un voto, ma insomma, più o meno è quello che interessa, che dovrebbe interessare un'Europa un po' più, posso dire, intelligente, forse meno ragionieristica, prego. Sì, e l'altra faccia della medaglia ovviamente è che il calcolo del deficit è sempre sul PIL presentato, esatto, come percentuale del prodotto interno lordo, quindi delle dimensioni dell'economia, e queste non sono cresciute, e secondo queste stime che il Fondo Monetario ha pubblicato oggi non cresceranno molto neanche quest'anno né il prossimo. L'Italia è un po' impantanata, 0,8 quest'anno, 0,8 il prossimo. Le proiezioni probabilmente non tengono conto del DEF, della manovrina, eccetera, eccetera, però insomma l'Italia comunque resta in fondo a questo treno dei paesi industriali, resta più o meno alla metà della crescita europea dell'area dell'euro nel suo complesso, la disoccupazione resta più alta, quindi diciamo che l'altra faccia della medaglia anche contribuisce non poco a questi problemi di finanza pubblica, cioè il fatto che comunque l'economia non è cresciuta e non cresce. Sì, diciamo che del Fondo Monetario, prego. L'Italia è una di quelle economie che diciamo anche passato la fase peggiore della crisi, comunque resta al di sotto del suo potenziale, insomma, certo, l'Italia, certo. Così come la stessa Francia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo. Sì, va anche detto che su questo la ricetta, diciamo, dell'Europa a trazione tedesca, adesso vediamo se vincerà la Merkel o invece vincerà Schulz, lì dalla Germania, potrebbe cambiare molto l'orientamento. Qui ritorno all'Alessandro Melli, grande conoscitore delle cose europee, però diciamo, la ricetta è sempre stata quella di alcuni manager che okay, si concentrano solo sui costi ma non pensano mai ai ricavi, mettiamola così, cioè tu puoi tagliare, giusto tagliare, controllare i conti, però se poi non hai delle prospettive di ricavo e di rilancio, di crescita, tu tagli ma il PIL continua a essere asfittico, come Merli ricordava, il deficit che interessa è quello fratto PIL, come si diceva a scuola. Alessandro, su questo chiudiamo proprio sulle prospettive politiche, visto che inizia con fine aprile, con le elezioni francesi, iniziano 4 mesi intensissimi, perlomeno Francia, Gran Bretagna e Germania. La vera novità per l'Europa arriverà, diciamo, dalla... è chiaro che se vince la Le Pen si apre un fronte completamente insondabile, ma arriverà più dalla Francia o da un'eventuale vittoria di Schulz in Germania? Io credo che arriverà dalla Francia, nel senso che non sappiamo, ci sono 4 candidati un po' testa a testa, effettivamente non sappiamo quale sarà il risultato di questa elezione. È chiaro che una vittoria della Le Pen, o ancora di più, o addirittura un ballottaggio che fosse tra Le Pen e Mélenchon, avrebbe probabilmente un impatto anche di mercato molto, molto pesante. Per quello che riguarda le elezioni in Germania, io credo che Angela Merkel resti favorita, un po' l'effetto novità di Schulz è rientrato, per quello che ci può fidare dei sondaggi, si comincerà a vedere, perché poi parliamo di elezioni nazionali, ma a maggio ci sono 2 elezioni regionali in Germania, una delle quali nello stato del Nordrhein-Westfalia, che è il più popoloso della Germania e rappresenta, diciamo, quasi circa un quinto del prodotto interno lordo tedesco. Quindi già a metà maggio si potrebbe avere qualche indicazione. Quanto al fatto che con Schulz si possa avere una sterzata, diciamo, nella linea tedesca, io sarei un po' più scettico, nel senso che in realtà è l'opinione pubblica in Germania che è favorevole a una disciplina, a rigore di bilancio, sì, eccetera. Tanto è vero che lo stesso Schulz, appena entrato nel vivo poi della sua campagna, a parte le belle dichiarazioni di principio che aveva fatto all'inizio, appena era stato nominato, ha fatto un po' una correzione di rotta, nel senso che ha ricordato comunque i principi della disciplina dei conti. Si è un po' rimangiato una posizione che aveva espresso in passato quando stava a Bruxelles, non in Germania, a favore delle emissioni di Eurobond. Quindi io non mi aspetterei, anche con una vittoria di Schulz, una strassata netta dalle elezioni in Germania. Sì, è chiaro, insomma, conto sono le dichiarazioni prima, poi c'è la campagna elettorale, poi c'è l'opinione pubblica, poi ci sono i sondaggi, proiezioni e quant'altro. Sì, adesso va detto a onore di Angela Merkel che lei rappresenta una fetta consistente dell'opinione pubblica tedesca, non è solo da sola una donna da sola al comando, ecco. Di questi temi continuiamo a parlare in versione più Brexit nel prossimo approfondimento che riguarda proprio anche la decisione a sorpresa di Theresa May. Elezioni anticipate, ci mancavano appunto le elezioni in questo anno, l'8 giugno in Gran Bretagna. Intanto grazie a Alessandro Merli in collegamento con noi. Sì, in collegamento da Washington, non ho detto da dove, che fosse in collegamento era abbastanza chiaro, era in collegamento da Washington appunto per la presentazione dell'outlook, delle prospettive del Fondo Monetario Internazionale. Invece in collegamento da Londra c'è Lorenzo Codogno, già capo economista al Ministero del Tesoro a Roma, è visiting professor alla London School of Economics e ha fondato la LC Macro Advisors. Buonasera Codogno. Buonasera. La sentiamo molto, molto basso, sentiamo un attimo il livello di Codogno. Theresa May che annuncia di aver preso con riluttanza la decisione di andare e all'improvviso e a sorpresa di andare alle elezioni anticipate. I have just chaired a meeting of the cabinet. Ho appena presieduto una riunione di governo dove abbiamo concordato sul fatto che si debbano indire elezioni da tenersi l'8 giugno. Voglio spiegare le ragioni alla base di questa decisione. Cosa accadrà dopo che il popolo britannico si sarà espresso alle prossime elezioni? La scorsa estate, dopo il voto sul lasciare l'Unione Europea, il popolo aveva bisogno di sicurezza, stabilità e una guida forte. E fin da quando sono diventata primo ministro, il governo ha assicurato tutto questo. Nonostante le previsioni di pericoli immediati sul fronte finanziario ed economico, dal referendum in poi abbiamo visto che la fiducia dei consumatori è rimasta elevata. Dati record sul fronte del lavoro e la crescita economica, che è andata al di là di ogni attesa. Abbiamo lavorato per garantire il mandato che ci è stato affidato dal risultato del referendum. Il Paese sta lasciando l'Unione Europea e non ci può essere alcun ripensamento. And there can be no turning back. Oh, ricordo che solo a novembre 2016 la stessa Theresa May aveva escluso elezioni anticipate prima del 2020. Poi i politici cambiano idea in tutto il mondo e anche in Gran Bretagna. Codogno, perché ha cambiato idea, diciamo, da novembre ad aprile, il tempo è abbastanza breve? Lei ha sostenuto, Theresa May, che insomma dobbiamo farle perché abbiamo delle divisioni Italia e Westminster in Parlamento, per cui bisogna ripulire, insomma, e avere un'indicazione chiara, se no sarà una Brexit incasinatissima, questo lo aggiungo io, con un Parlamento spaccato quasi in due. I sondaggi danno i Tories, quindi i conservatori, di Theresa May in vantaggio di 18 punti addirittura sui laboristi, 44% contro 26%, poi l'UKIP all'11% e Lib Dem al 10%. Codogno. Ma innanzitutto era un po' nell'aria questa decisione, anche se la May e il portavoce della May avevano negato questa possibilità non solo a novembre, ma anche molto più di recente. Quindi il timing è stato un po' a sorpresa. Detto questo, in effetti dal punto di vista del primo ministro inglese ha abbastanza senso cercare di chiudere la partita, nel senso che nel Parlamento inglese vi è una forte fronda a favore del rimanere nell'Unione Europea, nonostante sia già stato attivato l'articolo 50 che dà inizio alle procedure per il distacco. La Theresa May aveva dei problemi interni all'interno del suo partito e questo annuncio di elezioni può risolvere di fatto questo problema, nel senso che dati i sondaggi attuali il partito conservatore avrà un'ampissima maggioranza in Parlamento e quindi lei avrà un Parlamento più a favore, perché col sistema sicuramente avrà un Parlamento molto più a favore e soprattutto probabilmente isolerà quei membri del partito conservatore più di destra che sarebbero a favore di un'uscita molto più dura dall'Unione Europea, molto più cosiddetta hard Brexit. Quindi forse riuscirà a isolare questa fazione interna al suo partito, avrà una maggioranza molto ampia nel prossimo Parlamento, questo le consentirà di avere molta più forza e questo probabilmente facilita anche le negoziazioni con il resto dell'Europa. Resti con noi, Codogno, perché poi vorrei capire, invece sulla Brexit abbiamo letto anche una dichiarazione insomma del segretario che ha la delega, lui si chiama il ministro britannico per la Brexit, David Davis, che ha detto insomma no, attenzione, prima di spostare l'EMA e l'EBA, quindi l'agenzia del farmaco, l'autorità bancaria europea, vogliamo che questo sia oggetto di negoziati. Forse Davis non ha capito che quella roba lì è dell'Unione Europea, si sposta e basta, ma sembra un po', poi mi corregga lei visto che a Londra ci lavora e ci vive, che sul fronte dei principi gli inglesi, no basta, abbiamo votato, dobbiamo uscire dall'Europa, poi quando gli tocchi la scarsella, come si dice in Veneto, i soldi, il portafoglio, beh, diventano molto molto più così tattici, no? Adesso, quindi come se non volessero ammettere che questa Brexit avrà anche delle conseguenze negative per loro. Dopo il traffico, la risposta. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Focus Economia. Allora, professor Codogno, è quando si toccano i soldi che notiamo un po' di resistenza da parte del, appunto, dei britannici, del governo di Theresa May, nel caso specifico oggi del ministro alla Brexit Davis, che ha detto no, aspettate, l'agenzia del farmaco e l'autorità bancaria europea non è mica detto che debbano andarsene. Beh, questo è chiaro che adesso la negoziazione si sta aprendo, quindi non escluderei anche toni abbastanza duri. Sulle agenzie non ci sono discussioni, le agenzie torneranno all'interno dell'Unione Europea. Sulla tempistica di questa operazione lì si potrà negoziare. Penso che adesso la grande negoziazione, il primo grande passo sarà la cosiddetta separation bill, cioè un accordo per recidere, e quindi è il cosiddetto, per così dire, il contratto di divorzio. Quindi si dovrà decidere che fare con i cittadini europei residenti nel Regno Unito e i cittadini inglesi residenti nell'Unione Europea, primo. Secondo, bisognerà decidere come regolare gli impegni finanziari attualmente in corso tra il Regno Unito e il resto dell'Unione Europea. È una trattativa molto difficile, ma penso che si possa risolvere in tempi non troppo lunghi. Un'ultima domanda che in realtà è il tema posto da professor Zingales sulle colonne del Sole 24 Ore, sulle pagine del Sole 24 Ore di domenica. Dice, iniziamo a discutere in maniera seria, non come propaganda politica, come frasi fatte, come slogan, usciamo dall'euro e tutto migliora, è pieno di rischi, soprattutto di preoccupazioni, la svalutazione che ne avrebbe poi il nostro debito e quant'altro. Però ragioniamo su, non nessun tema è tabù, ragioniamo anche se si possa immaginare un'uscita dall'euro. Ecco, posso chiedere un'anticipazione, visto che su questo poi noi avremo domani Zingales e gli chiederemo appunto che cosa gli sia venuto in mente, ma non come polemica, cioè quale sia l'obiettivo di fondo, la sua opinione su questo, poi la ricontatteremo con ogni, ma insomma, si può iniziare un ragionamento anche di scuola sull'euro o no? Penso che sia giusto aprire questa discussione, anche perché molte delle proposte che attualmente sono sul tappeto da parte di alcuni partiti politici, penso che non terrebbero un'analisi attenta e un'analisi approfondita, quindi ben venga un'analisi, una discussione al riguardo, e vedremo le proposte se saranno in grado di essere tecnicamente valide. Cioè lei dice meglio parlarne, perché poi quando vai a snocciolare i problemi al di là dello slogan usciamo dall'euro e torneremo a essere ricchi, usciamo dall'euro e non avremo più problemi, e tutto aumenterà, quando uno va a snocciolare poi i vari ricadute elementi capisci che è ben più complessa la cosa, è ben più rischiosa? Assolutamente sì, direi che si può discutere se l'Europa sia una costruzione ideale in questo momento, certamente non lo è, ma uscire dall'Unione Europea in questo momento sarebbe disastroso, e penso che molte persone che parlano e dicono con molta leggerezza di uscire dall'euro dovrebbero ricredersi e guardare con molta attenzione a quello che questo comporterebbe, i costi e soprattutto i danni che questo provocherebbe all'economia e alle persone in futuro. Quindi secondo me dovrebbero essere valutati non solo i costi e i benefici, come qualcuno fa in maniera molto ragionieristica, ma anche le conseguenze più profonde di lungo periodo. Grazie, adesso poi ne parleremo, ripeto, domani con Luigi Zingales. Grazie intanto a Lorenzo Codogno in collegamento con noi da Londra. Avanti con il terrorismo finanziario, fai schifo Barisoni. Oh, ma io vi ho detto semplicemente quello che vedo come conseguenza dell'euro. Tra l'altro, una cosa che non viene mai detta politicamente, perché quella dà fastidio, è che quando tu hai una svalutazione della tua valuta, e questo avverrebbe poi con la liretta, con la nuova lira, chi la prende in quel posto, anche perché imbarchi inflazione, sono sempre le classi più deboli, quelle a cui si rivolgono i partiti. Cioè, come abbiamo visto in Grecia, ben prima che ci fosse anche l'ipotesi di uscire dall'euro, i greci ricchi avevano già portato i capitali in Svizzera, e capiterebbe così. Cioè, l'inflazione distrugge i salari delle fasce basse, distrugge il potere d'acquisto delle fasce basse, non dei ricchi, non che voi immaginate tutti a favore dell'euro con questo complotto pluto-giudaico-massonico. Quelli, come sentono aria, già li portano da qualche altra parte i soldi, è proprio chi uno vorrebbe difendere che la prende in quel posto. Comunque, insomma, è la mia idea, ne discuteremo, andremo ad analizzare in maniera, con un approccio spero il più possibile economico, da domani in poi con Luigi Zingales e altri ospiti, pro e contro. Adesso invece c'è c'è il GR24 e poi parliamo di borsa, di autostrade Abertis e anche di manovra con una nuova frizione tra Padoan e Renzi sul tema IRPEF IVA. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Tutti convocati live nel Santa Santorum dell'Etere, Radio City. Io sono Carlo Genta e con Pierluigi Pardo vi aspetto venerdì 21 aprile, ovviamente dalle 14 alle 15.30, convocati live dal Pavilion Unicredit in piazza Gaia Aulenti a Milano. Faremo insieme una puntata speciale di Tutti Convocati, con tanti ospiti sul palco all'interno della grande manifestazione dedicata al nostro mondo, quello della radio. Vi aspetto. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Focus Economia. E 7 minuti, andiamo adesso sulla borsa e sulla vicenda Abertis, Autostrade per l'Italia o Atlantia, come si chiama adesso la borsa. Dicevamo, al di là del caso inglese che abbiamo ampiamente commentato, alla fine Londra ha perso il 2,50%, la sterlina ha avuto uno scossone quando soprattutto è arrivato l'annuncio della conferenza stampa sorpresa di Theresa May, che poi ha annunciato elezioni per l'8 giugno. Andiamo sui titoli invece. Mediaset -4%, Atlantia -3,80%, Tenaris -3,40%, Estima Acroelectronics -2,90% come Case New Holland, Telecom -2,70%, Saipem -2,5% come Banco BPM, Unipol. E complessivamente Milano alla fine ha perso l'1,60% come Parigi, Francoforte -0,90%. E il commento, anche in questo caso come sempre, con Radio Cori sulle 24 ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Ha pesato Gran Bretagna ma anche Turchia, va detto. Il titolo più positivo è stato in assoluto, devo dire, Leonardo, in assoluto tra quelle maggiore capitalizzazione Leonardo, +3,20%. Lì c'è notizia, e poi invece andiamo su Mediaset e gli altri. Sì, allora, per quello che riguarda Leonardo, nel fine settimana è arrivata la notizia che la società fornirà 20 aerei all'Iran, quindi si tratta di una notizia sicuramente positiva. Inoltre va detto che Leonardo è anche il titolo che a Piazza Affari è forse quello che risente di più dell'andamento della sterlina. Con la sterlina che oggi si è apprezzata molto, anche Leonardo ha potuto approfittarne perché ha un'incidenza positiva sul fatturato e quindi è chiuso in rialzo del 3,18%. Ancora, per quello che riguarda invece i titoli peggiori, Mediaset diciamo meno 4%, ma anche, lasciamo stare Atlantia per un secondo, anche Tenaris, ST Microelectronics, Case New Holland. Sì, allora, per quello che riguarda Mediaset, che è ceduto il 3,96%, il discorso qui lo possiamo fare insieme a Telecom Italia, che ha ceduto il 2,69%. Oggi è attesa la riunione della GCOM che dovrà dire se Vivendi può essere azionista così rilevante sia di Mediaset che di Telecom. Di Mediaset ha circa il 29%, di Telecom ha il 24%. Per quello che riguarda invece gli altri, che sono titoli più industriali come Tenaris, ST Microelectronics, CNH, hanno risentito tutti oggi un po' di alcune vendite generalizzate su titoli più legati all'industria. Per quello che riguarda Tenaris, poi c'è anche l'esposizione rispetto al comparto petrolio, che oggi è stato in calo, anche perché nel fine settimana sono arrivate delle stime dell'Agenzia Internazionale del Petrolio che danno la domanda per quest'anno in calo, per cui un po' tutti gli energetici oggi hanno sofferto, l'abbiamo visto anche con Eni, meno 2,07%. Sì, lì appunto pesa anche lo stop in Basilicata, la chiusura temporanea del Cova Valdagri dopo le accuse di inquinamento. Sì, in questo caso c'è anche questo fattore, anche se gli analisti rimangono piuttosto fiduciosi sul tema. Il gruppo già l'anno scorso aveva dovuto chiudere l'impianto in Basilicata per 5 mesi e il problema che è emerso negli ultimi giorni sembra, almeno per quello che riguarda gli analisti, non così grave, non si aspettano un impatto così significativo, al massimo qualcosa si potrà vedere sui conti del secondo trimestre. Ancora per quello che riguarda sempre i titoli a maggior capitalizzazione, ha tenuto Moncler più 0,50, Fineco Bank più 0,16, poi poco mosse Terna meno 0,30, Unicredit meno 0,30, Snam meno 0,50. Oggi non sono le banche le protagoniste, sono i titoli industriali come ricordava Guido Maurino. Saipem meno 2,50, la prima banca negativa è il Banco BPM meno 2,50 anch'esso, Unipol meno 2,40, Azimut meno 2,30, Brembo meno 2,20 come Buzzi, Unicem, Luxottica e appunto Eni perde il 2 come Intesa, San Paolo e Unipol Sai. Arriviamo tra un attimo, vedo chi mi scrive sul tema di Atlantia, abbiamo un approfondimento apposito, Fincantieri da un lato e poi andiamo sui migliori e peggiori. Sì, per quello che riguarda Fincantieri oggi c'è stato l'annuncio per la fornitura di 2 ulteriori navi da crociera, non è stato specificato l'impatto anche se gli analisti si aspettano che siano 2 commesse che possono valere circa 600 milioni di euro, quindi 2 commesse significative e poi c'è sempre questa attesa per la finalizzazione dell'acquisizione dei cantieri francesi, domani l'amministratore delegato Giuseppe Bono è atteso proprio a parlare con i lavoratori e con i sindacati che in Francia devono dare un parere non vincolante ma comunque devono dare un parere in caso di cambio di proprietà. Tutto il puzzle sembra ormai arrivato a una conclusione positiva, ci sono ancora le ultime tecnicalità, comunque l'acquisizione sembra in procinto di andare in porto. Allora, per quello che riguarda altri titoli, andiamo sui migliori e peggiori, Gefran più 6,43, Banca Intermobiliare più 6,20, Volkswagen più 5,30, Digital Magics più 4,70, Safebag più 4,20, il fronte opposto Sintesi meno 15,20, Poligrafici Printing meno 9,90, Gala meno 7,30, Dada meno 6,80%, Bioera meno 6,60. Grazie Guido Maurino, ma noi restiamo in tema di borsa perché ci occupiamo di Atlantia Abertis. Allora, nei giorni scorsi era circolata l'indiscrezione ripresa da vari media di un possibile disimpegno della famiglia Benetton, che controlla Atlantia, l'ex Autostrade per l'Italia, nei confronti appunto della partecipazione. Non ho dato la Juventus, scusatemi, avete ragione, mi scrive immagino un tifoso, il miglior titolo era Juventus più 16%, spero che sia per la Juventus di buon auspicio vista la partita di domani. Dicevo, torniamo invece ad Atlantia Abertis. Era circolata la voce di un possibile disimpegno della famiglia Benetton proprio in Atlantia. In realtà le notizie che arrivano oggi andrebbero nella direzione opposta, perché da un lato il mercato ha punito Atlantia e fa crescere Abertis. Di solito questo capita quando punisci chi compra e premi chi viene acquisito, e soprattutto le indicazioni che sono arrivate dalla Spagna sono semplicemente di una su richiesta della Consob. Abertis è il colosso delle autostrade spagnolo. Dicevo, sono di una richiesta di informazioni, e Abertis ha semplicemente detto sì, è vero che Atlantia ci ha manifestato il proprio interesse ad esplorare una possibile operazione societaria i cui termini non sono ancora stati specificati. Adesso le agenzie si spingono a dire che potrebbe essere Atlantia a cercare di acquistare la concorrente spagnola Abertis per dare comunque via a uno dei maggiori operatori autostradali al mondo. Allora, chiedo a Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera, che cosa buonasera si sa a voi fino adesso? Perché chiaramente... Beh, allo stato attuale in realtà si sa molto poco. Di ufficiale è uscito il comunicato di Abertis, che su richiesta della Consob spagnola ha chiarito appunto che i rumor che stavano circolando sul mercato erano veri, ossia che Atlantia si era fatta avanti per valutare assieme a loro possibili ipotesi di azioni di tipo industriale. Atlantia ha sostanzialmente per ora non commentato, ma non ha nemmeno dito, è probabilmente uno dei dossier allo studio come tanti altri, ma è un dossier evidentemente molto importante per Atlantia rispetto agli altri, perché è un dossier che ne cambierebbe radicalmente le dimensioni. Ecco, l'obiettivo quale sarebbe? Cioè, per uno dice vabbè, diventi il più grande operatore autostradale, ma il beneficio, o quelle che si chiamano in gergo le sinergie? Il beneficio è fondamentalmente quello che ridurresti di moltissimo l'esposizione in Italia, quindi metteresti in qualche modo i vari rischi paese. Se vero ci fosse un'aggregazione con Abertis, diventerebbe il più grande operatore industriale in questo settore, con una forte presenza in Italia, una forte presenza in Spagna e soprattutto una forte presenza in Sud America, che in questo momento è uno dei mercati più attivi sul fronte della crescita dal punto di vista di nuove tratte autostradali. Ed è sicuramente una piazza molto interessante. Però questo, perlomeno possiamo dire che conferma un movimento nella famiglia Benetton, perché si era ragionato anche, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, di Autogrill, della scissione tra Autogrill come attività statunitensi e Autogrill, cioè internazionali, non solo statunitensi, anche se grosso lo fa l'area dollaro, e Autogrill per quello che riguarda invece l'attività in Italia. Cioè si sta muovendo, insomma, la holding Benetton, no? Questo è sicuro, sicuramente i Benetton stanno ridisegnando un po' la loro strategia di portafoglio, cercando di diventare sempre meno azionisti industriali e più azionisti finanziari, quasi con una logica di fondo sovrano fondamentalmente. Già la logica di Atlantia di per sé rispecchia questo tipo di strategia, è una holding infrastrutturale in cui la famiglia Benetton è presente con una quota importante, ma che agisce però più come socio finanziario che come socio industriale, quindi l'ottica è sicuramente quella. Questo vorrebbe dire ridurre ulteriormente l'investimento nella parte industriale, cioè la parte moda? La parte moda, quello è un punto di domanda che resta sempre appeso, è da tanti anni che si sta cercando sostanzialmente di ristrutturare quello che poi è il settore che ha lanciato la famiglia Benetton nel mondo dell'industria. È un settore che richiede evidentemente particolare attenzione anche dal punto di vista delle risorse finanziarie e del riposizionamento. Ora c'è stato un nuovo cambio al vertice, quindi sicuramente quello è una questione irrisolta sulla quale si dovranno impegnare ancora. Più facile è evidentemente studiare strategie industriali su società come Autostrade e Autogrill, che dire, che hanno rendimenti certi. E, no, ma poi e lì, dal punto di vista industriale, ce ne siamo occupati negli anni scorsi. C'è stato anche l'avvento, chiamiamolo così, di Zara e dei H&M, la crisi in cui è in corsa Stefanel. Cioè, io dico da italiano, mi dispiace solo che noi, che abbiamo insegnato al mondo che cosa voglia dire la moda. Adesso rischiamo a basso costo tanto. E a grande rinnovo, ricambio, cioè Stefanelli e Benetton questo hanno fatto, poi adesso dobbiamo prendere lezioni da Zara, dagli spagnoli di Zara o dagli svedesi di H&M. Grazie intanto anche Laura Galvagni, andiamo sul traffico e poi il DEF, perché come sì, lo so che si chiamano Benetton, ho capito, ma come già il nostro GR24 ricordava, insomma, la frizione tra Renzi e Padoan non è che si sia ridotta, a maggior ragione dopo l'intervista del ministro Padoan, che ha detto, insomma, si può pensare a un aumento dell'IVA in cambio di una riduzione dell'IRPEF e quindi del cuneo fiscale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Le 18:21, ultima parte di Focus Economia. Allora, vediamo di capirci qualcosa. Noi abbiamo un'Europa che, per via della clausola di salvaguardia, se non, diciamo, troviamo 18 miliardi di copertura anche per il prossimo anno, scattano in automatico gli aumenti dell'IVA e non solo, anche delle accise, fino al 25%, 19 miliardi di copertura. Poi c'è un ministro Padoan, c'è un ex presidente del Consiglio che comunque è, per ora, vediamo quando andranno le primarie, il riferimento del PD, ossia il partito di maggioranza relativa che sostiene il governo, si chiama Matteo Renzi, che non ha nascosto divergenze di opinioni con due ministri tecnici. Il da noi molto elogiato, non che questo cambi qualcosa, Carlo Calenda, perché secondo noi è competente, e invece è anche il ministro Padoan. Le possibilità quali sono? O tu, diciamo, rimoduli la pressione fiscale e accetti un aumento di IVA e riduci il cuneo fiscale, cioè riduci le tasse su chi il lavoro ce l'ha, ma si vede, come l'OCSE ci ha ricordato la settimana scorsa, portare via buona parte della busta paga dalle tasse, quindi con nessun vantaggio né per il datore di lavoro né per il lavoratore. Oppure le alternative per una manovra fiscale forte in busta paga non ci sono, perché devi trovare 19 miliardi per non far scattare l'IVA. Allora, poco fa Renzi ha chiarito nella sua e-news: non c'è nessun aumento di IVA né della benzina né dello zucchero. L'ultima volta che in Italia è aumentata l'IVA risale al 1 ottobre 2013. Altro governo, noi le tasse non le aumentiamo, non le aumentiamo. Il governo Gentiloni ha scelto la stessa strategia anche per il futuro. Il PD non è più il partito delle tasse, abbiamo davvero rottamato Dracula. Che non so se si è riferito forse a Visco, che è il soprannome di Visco. Però il ministro Padoan, in un'intervista al Messaggero, ha detto: no, è ragionevole uno scambio fra le aliquote e il cuneo fiscale. Resta l'ipotesi del taglio IRPEF, gli aumenti agli statali ci saranno. Comunque è ragionevole pensare che posso aumentare un po' l'IVA se da una grossa riduzione al cuneo fiscale. L'unica terza alternativa per ridurre le tasse in busta paga è non ottemperare quelle che sono le richieste europee, cioè tenere un deficit l'anno prossimo al 2,4, non al 1,3, 1,2, 1,4, e con quei 20 miliardi fare l'operazione sull'IRPEF. Questo vorrebbe dire però andare a, diciamo, uno scontro comunque sulle prospettive, per carità. Io non ci vedrei nulla di male se un deficit fosse ancora al 2,4% e permettesse però di far ripartire il PIL con benefici futuri. Ma giro la domanda a Dino Pesola del Sole 24 Ore. Buonasera, Dino. Buonasera, buonasera. Queste sono le tre alternative, ma soprattutto quanto alto è la frizione tra Padoan a sto punto e Renzi? Perché con Calenda già gli ha bloccato le norme antiscalata e sulle privatizzazioni erano favorevoli sia Calenda che Padoan, e Renzi invece ha frenato. Ma a me sembra molto evidente, nel senso che il ministro dell'economia già da tempo, per la verità, lo va sostenendo, poi nell'intervista di domenica al Messaggero lo ha esplicitato, nella prospettiva di una legge di bilancio, quella di ottobre, che comunque sarà molto complicata, perché abbiamo fatto dei conti, qui si parte da 17 miliardi senza nemmeno aver inserito un euro per lo sviluppo. Quindi se teniamo conto che questo è il quadro, è una legge di bilancio che si farà a pochi mesi dalle elezioni, l'ipotesi di fare una specie di scambio tra l'aumento magari non di tutte di tre punti o forse mirato sull'aliquota intermedia del 10%, questo si vedrà, e con questo aumento finanziare un più robusto taglio del cuneo fiscale, questa è una tesi che Padoan va sostenendo da tempo, e peraltro, essendo stato all'OCSE, non a caso va citando in questi giorni proprio uno studio dell'OCSE recente in cui si sostiene che l'Italia è ancora messa malissimo dal punto di vista della pressione fiscale. Però scusami Dino, per come la capisco io, adesso Renzi dice no a questo, però deve anche proporre, nel senso che se tu non vuoi lo scambio tra IVA, un aumento dell'IVA in cambio della riduzione dell'IRPEF, l'IRPEF vale più o meno 46 miliardi di gettito, l'IVA 23 miliardi, ma dico... E tu sai che devi già trovare 18-19 miliardi per le clausole di salvaguardia, delle due l'una, o ci dici che cosa faresti, e lì io come unica ipotesi vedo andare in Europa a dire il nostro deficit resterà del 2,4 anche nel 2018, abbiamo in questo modo 20 miliardi in più, vedrete che questo porterà un aumento del PIL, o se no non ho capito bene come tu faccia a non aumentare l'IVA ma a fare un'operazione di riduzione delle tasse in busta paga. La linea di Renzi è molto chiara, bisogna andare in Europa e spuntare un altro punto in più di deficit, se non di più. Cioè il problema di fondo, lo ha già detto peraltro più volte e lo ripeterà anche in questi giorni e soprattutto dopo le primarie. Cioè la sua idea è che comunque, poiché noi siamo ancora largamente al di sotto del tetto massimo del 3%, abbiamo dei margini ulteriori. Il problema è che questo è vero dal punto di vista dei numeri, non è vero dal punto di vista di quella che poi è la compatibilità che noi abbiamo, perché il problema non è il deficit, il problema è di quanto poi la mancata riduzione del deficit incide sul debito. Certo. E noi sul debito non abbiamo scorciatoie, non abbiamo regali che ci vengono da qualsiasi altra parte. Se per caso, malauguratissima ipotesi, ripartissero i tassi... Ma non è per caso, scusami Dino... Mario Draghi, se continua così l'andamento dell'economia, l'inflazione sta salendo nel resto dell'area euro, nel 2018 non è che può resistere all'infinito in trincea, dovrà dar ragione agli altri paesi che dicono noi siamo cresciuti, stiamo crescendo, l'inflazione c'è, tu sei il presidente della Banca Centrale Europea, non della Banca Centrale Italiana, adesso torni ad aumentare i tassi di interesse, perché appunto ci sono create le condizioni per tornare un po' a aumentare il costo del denaro. Certo. E questa è un'ipotesi, tra l'altro, che coinciderà con la fine del programma straordinario di acquisto, come sappiamo, nel 2018 presumibilmente, e questo fa prefigurare, e Padoan lo sa bene, uno scenario che è complicato, perché se ripartono i tassi e riparte lo spread, la nostra spesa per interessi a quel punto aumenta, e altro che sgravi fiscali, lì poi bisogna ricorrere ai ripari. Dunque l'operazione è molto complicata, c'è una variabile politica, anzi elettorale direi, molto molto precisa, molto esplicita. Io credo che Renzi dovrebbe in qualche modo rivedere questo approccio, non perché io sia favorevole all'aumento di tasse, sia chiaro, ma se c'è uno scambio su un taglio di tasse che è pro crescita, forse bisognerebbe considerarlo, magari accanto a un'operazione di rimodulazione di alcuni obiettivi che abbiamo messo nel DEF con l'Europa, ma non clamorosi. Cioè non sì, magari ne concludere Dino anche con una riduzione un po' più seria della spesa pubblica non produttiva, cioè i 138 miliardi di costi di acquisti di beni intermedi, ma lì sappiamo che insomma al di là di tante dichiarazioni la famosa spending review ha portato qualcosa sulla riforma sanitaria, per carità, ma Cottarelli aveva già scritto tutto. Insomma, io poi sono troppo vecchio per pensare che sotto elezioni si vada a tagliare la spesa pubblica, a fare la riforma del catasto. Questo è il problema di Renzi in questo momento, che ci deve dire che cosa farebbe al posto, diciamo, dell'aumento dell'IVA per ridurre l'IRPEF. Andare solo allo scontro con l'Europa è molto aleatoria come cosa. Grazie anche a Dino Pesole, si certifica comunque, lo ricordava anche Dino Pesole, insomma, una tensione tra i due ministri tecnici, in questo caso Padoan, e il